Buongiorno. Buongiorno a tutti, buona domenica. Ben ritrovati a queste lezioni di jazz. Prima di cominciare, questa mattina volevo fare un annuncio. Volevo ricordare che la nostra prossima lezione e ultima di questo ciclo sui concerti sacri di Duke Ellington sarà fra 2 settimane. E questo, chi di voi frequenta abitualmente queste lezioni lo sa già. Però domenica prossima io sarò ospite sempre qui all'auditorium delle lezioni di musica curate da Giovanni Bietti. Farò una lezione, diciamo, introduttiva, generale, su Duke Ellington, con la partecipazione anche del pianista Antonio Figura, e sarà appunto domenica prossima, ma alle 18 e non in orario mattutino, diciamo all'interno del ciclo di Giovanni Bietti. Quindi chi di voi volesse partecipare, insomma, ovviamente è il benvenuto. Oggi la lezione di oggi riguarda una guida all'ascolto, spero sarà avvincente, piacevole e anche in qualche misura sorprendente. Queste guide all'ascolto riguardano, abbiamo visto nel corso di questi 2 anni, possono toccare un intero album, un singolo brano. In questo caso abbiamo scelto un brano molto noto, un capolavoro del bebop, Coco di Charlie Parker, di cui adesso racconteremo la storia e proveremo a entrare nelle pieghe di questo brano per capire che storia ha, che cos'è, che cosa racconta. La prima cosa da ricordare è che questo brano fu registrato, diamo un po' di dati proprio così, terra terra, poi adesso via via entriamo nei dettagli. Fu registrato il 26 novembre 1945 a New York per la Savoy Records. La Savoy Records era una piccola casa indipendente che poi pian piano si amplierà, avrà sempre più spazio alla fine degli anni 40, perché pubblicherà una serie di dischi di rhythm and blues che avranno molto successo, ma era una delle tante etichette indipendenti attive a New York che cominciò a registrare questi nuovi musicisti che stavano emergendo sulla scena newyorkese, tutti poco più che ventenni, tra i 20 e i 25 anni. Nel 1945 Charlie Parker aveva 25 anni, vi ricordo era nato nel 1920 a Kansas City, e quindi questi musicisti, tutto sommato semi sconosciuti, avevano come unico sbocco non certo le grandi case discografiche come la Columbia, la Victor, la Decca, che si occupavano ovviamente delle star del jazz, oppure puntavano su dei nomi su cui pensavano di poter fare dei soldi, ma erano, come dire, interessate a piccoli, a nuovi musicisti, come appunto Charlie Parker. Questo brano sta all'interno di una seduta nella quale suonarono, c'erano diciamo 5 musicisti, è una storia un po' strana. Già, diciamo, la giornata comincia in maniera non proprio dritta. Furono convocati Charlie Parker, Miles Davis, che vedete in fondo alla lista, che all'epoca aveva 19 anni ed era da poco arrivato a New York, Bud Powell, che doveva suonare il pianoforte, il bassista Curly Russell, che vedete nella foto, e il batterista Max Roach. Di tutte queste persone, tutte erano presenti in studio, compreso però Dizzy Gillespie, che era intimo amico di Charlie Parker, quindi andò a curiosare su quello che stava succedendo in questa seduta di registrazione, che era una delle prime, tra l'altro, sedute di registrazione in cui Charlie Parker compariva come leader, come capo del gruppo, e usciva un disco a suo nome. Quindi era una situazione abbastanza importante. Gillespie andò a dare un'occhiata e fu una fortuna, perché passavano i minuti dal momento dell'appuntamento e Bud Powell non si presentava. Bud Powell non si è mai saputo dove stava. Sapete che Bud Powell aveva anche dei problemi psichici, era una persona un po' instabile. Insomma, fatto sta che Bud Powell non si presenta all'appuntamento. Ed è una fortuna perché ci sia Dizzy Gillespie, in quanto, mancando il pianista, Gillespie decide di sostituire Powell. Quindi negli altri brani di quella seduta noi sentiamo Miles Davis alla tromba e sentiamo un pianista che è Dizzy Gillespie. Gillespie era un buon pianista, era un compositore, un arrangiatore, un uomo di penna, diciamo così, uno che aveva studiato composizione e quindi non ha avuto alcuna difficoltà a mettersi alla tastiera e ad accompagnare in maniera professionale il resto del gruppo. Quindi in realtà poi adesso scopriremo che in Coco, l'unico brano, in quest'unico brano di questa seduta, Gillespie suona in un passaggio la tromba e poi si mette al piano e Miles Davis si ritroverà in un angolo dello studio senza suonare neanche una nota di questo pezzo. Vedremo tra poco perché. Questo è il motivo per cui ho messo queste quattro fotografie. È di fatto un quartetto e non un quintetto quello che stiamo per ascoltare. Che cosa successe quel giorno? Allora, no, scusate, intanto ascoltiamo il brano. Sì, sì, facciamolo andare. Questo è Gillespie? E questo è il famoso solo di Charlie Parker. Il brano ha un inizio piuttosto complesso, con una parte scritta e una parte improvvisata su cui torneremo, poi c'è questo lungo assolo di sax contralto di Charlie Parker, un breve assolo di batteria e la ripresa di quella parte introduttiva con una parte scritta identica e ovviamente la parte improvvisata lievemente diversa. Come è costruito questo brano? Su che basi è costruito? Allora, la prima cosa che possiamo dire è che questo brano è costruito su una canzone, cioè le armonie che, su cui improvvisa Charlie Parker sono le armonie di una canzone che si chiama Cherokee. Cherokee ha una sua storia piuttosto interessante e che è strettamente legata alla carriera di Charlie Parker. Questa canzone era stata scritta da un band leader inglese di nome Ray Noble, Nel 1938 Ray Noble era un band leader inglese che poi si era trasferito negli Stati Uniti e lì aveva conquistato un certo successo, anzi un successo rilevante, con la sua orchestra da ballo. Noble scriveva canzoni, dirigeva un'orchestra da ballo, andava molto spesso alla radio e a un certo punto scrisse una cosiddetta Indian Suite in diversi movimenti, in quattro movimenti. Nel 1938 ogni brano, ogni canzone, si chiama Indian Suite come se fosse stata una pomposa suite classica, in realtà era una serie di canzoni. Una di queste canzoni si chiamava Cherokee perché ogni canzone era dedicata ad una etnia nativa americana. Questa Cherokee era una canzone piuttosto particolare. Allora, era un pezzo in si bemolle, vabbè, anche se chi non sa cosa sono le tonalità è irrilevante, però la cosa interessante è che c'ha una melodia e un giro armonico con un grande respiro. L'inizio del tema poi adesso la sentiremo, ma fa così. Questa è una specie di inno, come se fosse una specie di canto rituale, immagino nella testa di Ray Noble, di canto rituale indiano, nativo. Tra l'altro Ray Noble è un personaggio interessante perché ha regalato al jazz un altro paio di canzoni che sono diventate degli standard. Una è The Touch of Your Lips, che Chet Baker ha portato a livelli straordinari, e l'altro è The Very Thought of You. Cherokee, con l'accento sulla prima, ha però una caratteristica interessante che deve aver attratto l'attenzione dei jazzisti. Sentite qui, praticamente il pezzo, a un certo punto la parte A finisce, poi c'è una parte centrale, la parte B, si chiama, che fa così. E ricomincia. Ora, questa parte centrale ha due cose interessanti. La prima è che tocca una tonalità molto distante dall'inizio, perché l'inizio finisce qui. Ok? Sentite come stacca in maniera brusca. Sembra andare direttamente da un'altra parte. Questo stacco brusco implica il passaggio a una tonalità, io lo dico anche per chi non è esperto, ma insomma sono le tonalità di Si, la tonalità di Si maggiore, di La maggiore e poi di Sol, che nel jazz sono usate rarissimamente. E quindi sono, come dire, stimolanti, sono una novità, arrivarono all'orecchio come qualcosa di fresco, di inusuale. In più, i jazzisti, in particolare Charlie Parker, furono attratti da questa sequenzialità. Sentite, c'è questo movimento discendente, graduale, ripetitivo, è come se allontanatosi dalla tonalità principale, pian piano il pezzo si riavvicina alla tonalità di partenza. E questa cosa di partire da una tonalità dissonante lontana, via via con questo effetto sequenziale, riavvicinarsi alla tonalità di partenza, era anche questo molto stimolante, molto particolare. Ma prima che fosse abbracciato dai solisti di jazz, in particolare da Charlie Parker, questo pezzo conobbe la fama non tanto attraverso l'orchestra di Ray Noble, ma attraverso un'altra orchestra bianca, quella di Charlie Barnett, che era un sassofonista che curiosamente, oggi lo consideriamo un minore tra i minori del jazz, ma alla fine degli anni 30 era un musicista che riscuoteva una notevole attenzione e, è incredibile a dirsi, anche e soprattutto fra i musicisti neri. Per esempio il mio amico Francesco Chiari, che dopo dovrò ringraziare per un altro motivo, stamattina mi ha telefonato dicendomi: guarda che nell'autobiografia di Malcolm X, dice parole, io non me lo ricordavo questo dettaglio, dice parole molto di grande lode nei confronti di Charlie Barnett. Charlie Barnett, il cui suono sul sax tenore era abbastanza anonimo e la cui orchestra era un'orchestra che era un'orchestra camaleonte, quando doveva imitare Duke Ellington suonava come Duke Ellington, quando doveva imitare Count Basie suonava come Count Basie, quando doveva imitare Glenn Miller suonava come Glenn Miller. Forse era questa la loro fortuna. In realtà hanno anche azzeccato un paio di successi notevoli. Uno di questi è proprio Cherokee nel 1939. Ve la faccio sentire perché questo è il disco che poi tutti hanno sentito. Il tema è fatto da Barnett al tenore. Sax è proprio il tema. Questo brano fu uno dei maggiori successi del 1939 e il giovane Charlie Parker dovette sicuramente ascoltarlo e trovò in questo pezzo qualcosa di speciale. Ce lo racconta lui stesso, vi ricordo nel 1939 Parker aveva 19 anni, era cresciuto a Kansas City, a 15-16 anni stava già diventando un maestro del suo strumento, il sax contralto, studiando in maniera veramente matta e disperatissima lo strumento. E, però il 1939, ce lo racconta lui in un'intervista dichiarandolo a un giornalista molti anni dopo, fu per lui un anno di svolta perché l'incontro con questo pezzo gli provocò una specie di illuminazione, dice lui. Lui sì, suonava, imitava Lester Young, anzi lo sentiamo nei dischi del 1940 che suona praticamente come Lester Young sul sax contralto, ma l'incontro con Cherokee e con quelle armonie, per esempio come vedremo poi della B, con queste progressioni, questo giro armonico dal respiro così ampio, non tanto la melodia che avete sentito è molto banale, ma invece questa armonia lunga, ampia, piena di svolte e torsioni, a un certo punto gli offrì l'opportunità per improvvisare. Durante una jam session, ricorda lui, dice, mi sono reso conto che potevo, dice Charlie Parker, suonare gli intervalli più alti della melodia, potevo utilizzare dei suoni dissonanti in una maniera nuova. Che cosa intende? Intende per esempio il fatto che se io ho, un accordo come questo, che è un accordo di quattro suoni, 1, 2, 3 e 4, ok? A questo accordo però posso aggiungere delle note dissonanti che stanno più su. Sentite? 1, 2, 3, 4, tutto quello che aggiungo sopra sono note che danno un colore diverso e che abitualmente i jazzisti non usavano tanto spesso. Le aveva usate a suo tempo Big Spiderbeck in maniera occasionale e poi erano diventate una caratteristica dello stile proprio di quell'Lester Young che Charlie Parker imitava. Ma suonando sulle armonie di Cherokee, Charlie Parker si rende conto che può introdurre queste note superiori, più dissonanti, dentro il discorso melodico, ottenendo dei colori improvvisi, delle dissonanze, come delle punzecchiature, diciamo così, espressive, e comincia a imparare a gestirle. Queste aggiunte sono importantissime perché poi diventeranno parte integrante del linguaggio dell'improvvisazione. Badate bene che quelle note che ho suonato non sono un'invenzione di Charlie Parker. Fanno parte dell'armonia tradizionale, ma cominciarono a essere usate in maniera sistematica, per esempio dai compositori classici, solo alla fine, fine 800, primi 900, in particolare da Debussy, e poi in maniera più massiccia da Ravel. E poi sono entrati nel linguaggio attraverso Ravel, per esempio anche nella musica di Gershwin, e in parte nel pianismo di Art Tatum. Vi ricordo che nel 1939 Charlie Parker arrivò a New York da Kansas City, non era nessuno, era un ragazzotto di 19 anni pieno di talento che nessuno conosceva. Non riuscì a trovare lavoro come musicista, trovò lavoro come lavapiatti in un club di Harlem, ma non lo scelse a caso dove andare a lavare i piatti, andò nel club dove suonava il pianista Art Tatum. E mentre lavava i piatti, lo dico a chi non trova, i musicisti in sala che non trovano lavoro oggi, mentre lavava i piatti, lui ascoltava Art Tatum giocare proprio con quel tipo di sonorità. Nello stesso periodo, tra un'asciugatura di piatti e l'altra, prendeva in mano il suo sax contralto e provava a improvvisare sulle armonie di questa nuova canzone di successo, Cherokee. Noi sappiamo che questo linguaggio che Parker stava sviluppando ha avuto una fase di maturazione nel corso degli anni della Seconda Guerra Mondiale, tra il 1942, 43 e 44. Disgraziatamente, per la storia del jazz, ma in generale per la storia della musica, quegli anni sono stati, un buco nero, contengono un buco nero di documentazione. Perché fra il 1942 e il 1944 il sindacato dei musicisti statunitensi, cioè l'American Federation of Musicians, AFM, proclamò una serrata, uno sciopero dei musicisti, impedendo ai musicisti di registrare dischi, perché il motivo del contendere era che il sindacato chiedeva alle case discografiche di pagare i diritti ai musicisti per i passaggi radiofonici. Avevano già avuto un contenzioso che si era risolto in un certo modo con le radio. Adesso il sindacato si rivolse direttamente alle case discografiche dicendo: voi non potete fare soldi mandando i dischi in radio e a noi non ci arriva niente. Anche i musicisti devono essere tutelati. Tra l'altro il presidente dell'associazione del sindacato musicisti era un italo-americano cazzutissimo che si chiama James Petrillo che ha praticamente veramente fatto guerra a tutte le lobbies, diventando a sua volta una lobby potentissima. L'American Federation of Musicians era, in certa misura è ancora uno dei sindacati più potenti che ci sono negli Stati Uniti, quello dei musicisti. Petrillo praticamente per 2 anni riuscì a mantenere il blocco totale delle registrazioni discografiche. Questo vuol dire che i jazzisti, faccio un esempio, che hanno come Charlie Parker, attivi fra il 42 e il 44, non hanno avuto l'opportunità di registrare alcun disco ufficiale. Quindi noi abbiamo un buco di documentazione proprio nel periodo in cui stavano succedendo delle cose importanti. È vero che questo buco però è parziale, perché ad esempio sono emerse nel tempo, ancora fino a pochi anni fa, registrazioni di fortuna fatte in un club, a casa di amici, fatte con strumenti tecnologici tipici dell'epoca, come registratori, come diciamo macchinari, adesso sarebbe fin troppo complicato descriverli in dettaglio, ma insomma era possibile registrare in maniera come dire, amatoriale, portandosi dietro un macchinario non proprio leggerissimo, ma comunque era possibile registrare in maniera amatoriale la musica. E quindi grazie a queste sparute registrazioni amatoriali noi siamo in grado oggi di ricostruire, avendo solo dei frammenti qui e lì, di provare a connettere le linee e avere un disegno coerente di quello che è successo fra il 1942 e il 1944. Ecco, proprio di Charlie Parker abbiamo delle registrazioni. Una di queste è stata fatta in un club di New York durante una jam session nel 1942. Una jam session nella quale Charlie Parker suona, non sappiamo esattamente il giorno, il mese, tra gennaio e marzo del 42, in cui suona Cherokee. Il posto non è indifferente, è il Clark Monroe's Uptown, cioè uno dei due club, l'altro è il Minton's Uptown di Harlem, nei quali club si facevano delle jam session da cui poi ha origine il bebop. Quindi siamo proprio nella tana del lupo, diciamo così, durante quelle nottate in cui Charlie Parker sperimentava delle idee sulle armonie di Cherokee. La registrazione di fortuna, Sono altri musicisti con lui che fanno il tema. Queste interruzioni sono nella registrazione originale. Il gruppo fa il tema. Questo reperto si interrompe così, a metà, è già tanto che ce l'abbiamo. Abbiamo un secondo reperto, tra l'altro sembra che questo fosse proprio un numero, una specialità di Charlie Parker, dato che era semi sconosciuto, sembra che proprio il proprietario, Clark Monrose, dicesse ai musicisti che si affacciavano, tipo venite domani sera che gli chiedo di fare Cherokee così sentite come suona. Ma abbiamo un altro reperto, questo reperto è stato fatto invece casalingo, è stato fatto a Kansas City quando Parker evidentemente era tornato momentaneamente nella sua città natale, nel Missouri, nello studio di un amico, tale Vic Damon. Siamo nel settembre del 42, o forse siamo prima di quando è andato a New York City, i dati sono difficili, immaginate di trovare un nastro e di doverlo datare, non è semplicissimo. Qui è accompagnato praticamente da un amico che suona la chitarra, questo è il bassista che vedete, Gene Ramey, non si ascolta nella registrazione, il bassista che vedete nella foto, ma insomma è accompagnato da un amico che suona la chitarra e un altro amico che suona il contrabbasso. Immaginate, sono tre amici intorno ai 20 anni che stanno a casa di un altro amico e suonano insieme il jazz, fanno una piccola jam e fanno ovviamente anche Cherokee, che era il pezzo forte di Parker. Formidabile, a 22 anni suona il sax alto come nessun altro. Il mondo non lo sa ancora, ma è veramente un musicista già maturo. Per esempio la velocità, l'agilità di questo fraseggio, le idee che arrivano una dopo l'altra, il controllo del suono, sono qualcosa che nessun sax contralto di quegli anni padroneggiava, soprattutto anche con questo linguaggio, poi lo vedremo più avanti, in cui si incastrano melodie, frasi, idee di natura molto diversa. Ma su questo torneremo dopo. Comunque avete capito che Cherokee è per Charlie Parker un tormentone, però a un certo punto, quando arriva alla Savoia e deve registrare questo brano, ovviamente, come dire, nel momento in cui deve registrare una delle sue prime sedute di registrazione più importante, decide di mettere in campo proprio Cherokee. Ma com'è che Cherokee diventa Coco? Cioè, com'è che cambia titolo? Avete sentito, prima abbiamo sentito un altro tema, lui improvvisa sul giro. C'è una trasformazione. Che cosa succede? Beh, la storia è molto interessante, per certi versi anche divertente. Allora, siamo a New York City il 26 novembre 1945 negli studi della Savoy Records. La prima cosa che sappiamo è che Charlie Parker e i suoi amici, ovviamente Bud Powell non si era visto, quindi c'era Dizzy Gillespie al piano, vi ricordo, Miles Davis momentaneamente in un angolo, si mettono a improvvisare liberamente sulle armonie di Cherokee, come per scaldarsi. Il tecnico del suono evidentemente ha registrato questa prova. Questa prova poi la Savoy, che era nota per non buttare niente, perché ogni cosa faceva soldi, Herman Lubinsky, il proprietario della Savoy, era qualcosa tra di mezzo fra il produttore e lo strozzino, diciamo così, e a un certo punto decide di pubblicare anche questo moncone di improvvisazione di Charlie Parker, che non ha un tema, non ha niente, lo sentiremo adesso, viene fuori, lui comincia a improvvisare e poi finisce in un momento qualsiasi. Questo moncone di improvvisazione, che peraltro è bellissimo, con un suono non proprio equilibrato, perché evidentemente il tecnico stava facendo delle prove, viene pubblicato non con il titolo di Cherokee, perché non c'è il tema, ci sono solo gli accordi, ma con il titolo di Warming Up Riff, cioè scaldandosi con un riff. Un pezzo di riscaldamento. Ed è bellissimo, in effetti. Ecco il modo in cui Charlie Parker e compagni si scaldano suonando liberamente, senza pensare di stare registrando un disco, su le armonie di Cherokee. Thank you. e si fermano così. Era un modo per scaldarsi, alla faccia del riscaldamento. Vorrei riscaldarmi io così tutti i giorni. È veramente meraviglioso, ha qualcosa di angelico. Io l'avrò ascoltato decine di volte in questi giorni per preparare la conferenza. È veramente di una bellezza incredibile. Questo era il riscaldamento. Poi arriva il momento in cui bisogna fare Cherokee sul serio. Okay? Quindi cosa fanno? Preparano un arrangiamento. Questo arrangiamento è quello che avete sentito nella primo ascolto, cioè con questa introduzione molto elaborata. L'introduzione si rivela talmente elaborata, soprattutto nella parte trombettistica, che Miles Davis alza le braccia e dice: io non sono in grado di suonarla. Era in effetti, il tempo viene preso più rapido di come avete sentito adesso, adesso lo risentiremo. Non ci sono armonie, è tutto molto astratto. Noi non sappiamo chi ha scritto questa introduzione, se l'ha scritta Gillespie o, come più probabilmente penso, l'abbia scritta Parker. Però è qualcosa che non aveva uguali nella storia del jazz fino a quel momento. È una cosa molto, è un disegno appunto astratto, senza armonia, con una forma molto strana, parti scritte improvvisate, velocissimo, di grande virtuosismo, senza rete, senza riferimenti, solo la batteria sotto. Avranno fatto qualche prova, Miles Davis deve aver detto: io non sono in grado. Davis non è mai stato un campione di tecnica, tantomeno a 19 anni. Fa un passo indietro, allora Gillespie dice: la faccio io. Fa lui l'introduzione e, siccome poi serve il pianista, una volta finita l'introduzione, poggia la tromba, si mette al pianoforte e suona al pianoforte il resto del pezzo. Ecco perché noi sappiamo che Miles Davis era in studio, ma non suona in questo pezzo. Naturalmente la prima cosa che fanno è una prima take. E questa prima take noi ce l'abbiamo e si interrompe un attimo dopo che loro cominciano a fare il tema. Cioè una versione scartata, fanno l'introduzione, cominciano a suonare il tema e poi si sente una voce che, si sente uno che fischia, probabilmente il produttore, li ferma e fa: hold it, fermatevi. E poi dice: you can't, e qui si interrompe la registrazione. Funzione astratta. Gillespie. Velocissimo. Scritto. Tema di Cherokee. Successo. Ma siete pazzi? Si sente che la voce è come se siete pazzi. Ma siete scemi? Che state facendo? Eh sì, probabilmente era Herman Lubinsky o il suo produttore esecutivo che gli saranno rizzati i capelli quando ha sentito il tema di Cherokee. Perché le piccole case discografiche evitavano di registrare pezzi scritti da altri, perché dovevano altrimenti pagare i diritti. Quindi, soprattutto a questi giovani musicisti, in queste piccole case discografiche, veniva proibito, e guardate che succede ancora oggi con le piccole case discografiche, di suonare i temi scritti da altri, perché voleva dire pagare le edizioni musicali ad altri. Invece la casa discografica cosa faceva? Faceva un pezzo originale di Charlie Parker, si appropriava delle edizioni musicali, diceva: ci pensiamo noi a depositarla, che so, alla SIAE, cioè, che so, alla ASCAP, eccetera, e pagava a se stessa le edizioni musicali. Questo è il motivo per cui, per esempio, Charlie Parker non ha inciso tanti standard quando stava con le piccole etichette come la Savoy o la Dial. Potevi però fare una cosa, cioè registrare sulle armonie di quella canzone, perché esiste il diritto d'autore sui temi, ma non sugli accordi, come è logico. Gli accordi sono, come dire, una combinazione matematica di cose date. La melodia è sicuramente un aspetto più creativo. Quindi, immaginiamo, questi hanno cominciato a suonare Cherokee e il produttore ha detto: fermi, ma siete pazzi, you can't, l'ultima cosa che si sente, cioè non lo puoi fare, mi mandate in rovina, figuriamoci Lubinsky. Quindi, a un certo punto cosa decidono? Decidono di fare il pezzo senza il tema. Ecco che allora Cirochi diventa non introduzione, tema, assolo, ma introduzione, assolo. E quella che era quell'introduzione astratta diventa il tema, pubblicato a nome di Charlie Parker, Edizioni Musicali della Savoy. Di questo cambiamento, naturalmente, influisce anche il titolo. Io non posso pubblicare il pezzo come Cirochi. E qualcuno deve aver buttato giù questo titolo, Coco. Coco era un clown, era il clown di un cartone animato che era molto popolare negli anni 20 quando Dizzy Gillespie era un ragazzino. Piaceva molto a Gillespie, quindi è probabile che Gillespie abbia detto vabbè, chiamiamolo Coco. Volete la prova provata? Questo è il foglio, il registro della seduta di registrazione. Notate che ci sono sia i nomi di Dizzy Gillespie sia di Miles Davis. Dizzy Gillespie piano è scritto, vedete, nel secondo rigo a destra. E guardate, all'altezza del terzo brano, Cirochi o qualcosa di simile è cancellato e fianco qualcuno ha scritto Coco. Questo perché avevano osato fare il tema. Allora, il brano che abbiamo noi, il Coco che abbiamo noi, non è altro che Cirochi senza il tema e con l'introduzione che diventa tema. Questa tecnica di improvvisare su un giro armonico di una canzone preesistente si chiama, nel gergo jazzistico, tecnicamente mascheramento. Quindi Coco è un mascheramento di Cirochi, ma non nasce volutamente come mascheramento. È un mascheramento, diciamo così, imposto da ragioni di business. Qui vedete come le ragioni creative c'entrano e non c'entrano. Hanno fatto di necessità virtù. Coco diventa un pezzo astratto perché quell'introduzione diventa il tema. E allora questa è la versione definitiva, cioè quella che noi conosciamo, in cui il tema A è scritto, nel tema, cioè quella che era l'introduzione diventa il tema, ha una parte A scritta, nella parte B Gillespie improvvisa, nella parte C Parker improvvisa, nella parte D di nuovo scritta. E poi l'improvvisazione è sulla struttura A, A, B, A, sulle armonie di Cirochi. A. B. C. D. Eccetera. E poi c'è l'assolo che abbiamo sentito. Quell'assolo è diventato un assolo leggendario che adesso proveremo ad analizzare insieme perché scopriremo un sacco di cose interessanti. Tra l'altro, su questo torneremo, avrete notato che il tempo è sensibilmente più veloce anche di warming up riff, cioè anche del riscaldarsi che avevano fatto pochi minuti prima in studio. Questo aspetto della velocità ci torneremo, ma è un dato importante perché, anticipo il discorso, la velocità con il bebop diventa non più un elemento di sfoggio virtuosistico, un pavoneggiarsi di abilità tecnica, ma invece diventa uno strumento espressivo. La velocità è ansia, è energia, è frenesia, perfino nevrosi a volte in Charlie Parker. E può essere anche una gioia smodata, come vedremo. Cioè, suonare molto veloce non solo serve, in effetti è servito ai giovani boppers, a far fuori musicisti che non riescono a starti dietro, ma è un modo per introdurre un nuovo elemento espressivo che nel jazz non c'era prima, perché la velocità estrema spesso nel jazz precedente era uno strumento di esibizionismo virtuosistico, sia che suonasse un'intera orchestra a rotta di collo e quindi mantenesse una pulizia esecutiva andando molto velocemente, sia che si trattasse di un solista che voleva far vedere quanto veloce andavano le dita sullo strumento. Qui no, qui la velocità è scelta perché, come dice Bud Powell, il tempo fugge, perché c'è una specie di ansia esistenziale che spinge i musicisti a scegliere un passo molto più rapido. Tanta è la urgenza da cui nasce questa musica. L'assolo di Charlie Parker, adesso entriamo in una dimensione che credo sarà molto sorprendente, lo dico perché io stesso, entrandoci, preparando questa lezione, sono rimasto stupito. Cominciamo con un primo dettaglio. Charlie Parker aveva un soprannome, Bird, prima ancora Yardbird, uccello da cortile, e poi semplicemente Bird, uccello, volatile. Perché? Beh, ci sono molti motivi. Gianfranco Salvatore ci ha scritto un libro che poi vedrete segnalato alla fine, molto bello, sul mito afroamericano del volo, che si trova anche nelle culture africane. L'idea del volo come metafora di libertà, come metafora di liberazione, come anche... c'è anche un elemento di congiungimento con gli dèi, con la divinità. Ci sono molti livelli simbolici. E poi c'è qualcos'altro. Parker, come molti grandi musicisti, era affascinato dal canto degli uccelli e spesso ha introdotto nei suoi assoli vere e proprie citazioni dei canti degli uccelli, e ce n'è una proprio all'inizio di Coco. Voi direte, caspita, sembra davvero il canto di un uccello. Gianfranco Salvatore ha identificato anche la specie, il tordo americano. Sono lieto che Gianfranco, quando sentirà il podcast di questa lezione, sentirà che faccio il suo nome e tutti ridono. Lo ha fatto molti anni fa, negli anni Ottanta. Io assistetti a una conferenza, ero ancora un ragazzo, insomma, assistetti a una conferenza che mi colpì molto, in cui lui raccontava le specie. Sulle sue spalle io ho aggiunto una piccola, diciamo, un piccolo dettaglio, perché preparando questa conferenza ho trovato la specie esatta da un sito pazzesco che Gianfranco non poteva consultare 30 anni fa quando fece la sua conferenza, da un sito che raccoglie tutti i canti degli uccelli di tutte le specie del mondo, e c'è una variante del tordo americano, l'American Robin, che canta esattamente nello stesso modo. Quando ho mandato questo file a Gianfranco Salvatore, mi ha mandato un messaggio: dobbiamo scriverci un saggio. Questo è un primo elemento. Ora, Charlie Parker citava i canti degli uccelli, ma in generale era un citatore compulsivo. Dovete sapere che gli improvvisatori jazz si dividono in due categorie, quelli che citano e quelli che non citano. Tra quelli che citano in maniera... tra quelli che non citano, anzi, facciamo un caso di musicisti che non amano citare altri materiali altrui, c'è John Coltrane, per esempio, che usava le citazioni molto raramente. Poi ci sono i citatori compulsivi, quelli che non sanno fare un assolo senza metterci dentro migliaia di altre cose. Faccio un elenco: Sonny Rollins, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Charlie Parker, Horace Silver. Tutta questa gente è gente che, quando fa un assolo, in realtà l'assolo è un mosaico di frasi prese da altri materiali, dei più diversi. Naturalmente la citazione è un gioco, come posso dire, iniziatico. Cioè, se tu capisci qual è la fonte, ti diverti. Se non identifichi la fonte, pensi che sia tutta farina del sacco del musicista e non cogli tutti i giochi che ci sono sotto. Io ho identificato alcune delle citazioni che sentiremo adesso, altre le ha identificate il mio amico Francesco Chiari, che ringrazio pubblicamente, che ha una memoria formidabile, altre ancora non siamo riuscite, cioè sento che ci sono delle citazioni, ma né io né Francesco siamo riusciti a capire esattamente qual è la fonte. Però quelle che abbiamo identificato sono già un bel po', e ve le faccio sentire. Arriva. Pippa, è la famosa melodia del marinaio che si sente anche, è una melodia popolare che si sente anche nei cartoni animati di Braccio di Ferro. Ci siete? Questa, tra l'altro, vi avviso che negli esempi che vedete proiettati, io vi dico qual è la fonte. Cioè, questa è la registrazione di Kansas City del 43. Ok? Ancora. È una canzone degli anni 20. È una melodia degli anni 20 che citano molto spesso sia Charlie Parker anche Ella Fitzgerald. Ci sono molte improvvisazioni di Ella Fitzgerald in cui fa questo salto di ottava che viene da questa canzone degli anni 20 che si chiama Horses, Horses. Questa è una canzone degli anni 20, si chiama Dardanella. L'abbiamo sentita nella versione di Paul Whiteman. E Charlie Parker la riprende per un attimo. Guardate quante sono diverse le fonti. Una melodia popolare, una canzonetta degli anni 20, una canzone più così melodica come Dardanella. Andiamo avanti. Let's fall in love, why shouldn't we fall in love? Due volte nella versione di Kansas City la fa Let's fall in love. Pentarotam. E notate che in queste due volte Charlie Parker, qui sono estrapolate dal contesto, fa la citazione sempre nello stesso punto, cioè all'inizio di una frase. Mentre la Sylorson Pipe arriva alla fine di una frase, tutte le altre, e questo è un aspetto molto importante su cui torneremo più tardi, vengono fatte all'inizio delle frasi, come se Parker avesse bisogno, per cominciare le sue frasi, di una specie di trampolino, prendendo dalle fonti più diverse. Qui, Let's Fall in Love. Appena estrapolato un frammento. Se non siete convinti, la cosa migliore è cantarsela, credetemi. Quando poi ve la cantate, vi rendete conto dell'identità. Cioè, entri cantandotela, entri nel, come dire, nella mente del musicista. E credetemi, questo è uno dei modi migliori per identificare le citazioni. Come vedete, gran parte di queste citazioni vengono dalla versione di Kansas City, che se non abbiamo il tempo, ma se ve la andate a riascoltare, scoprirete che è praticamente un mosaico continuo di citazioni. Mentre Irish Washerwoman, che è una famosa melodia popolare irlandese, e che viene citata anche questa spesso dai jazzisti, viene da Warming Up Riff, cioè dal riscaldamento di Coco nel 45. Sempre nelle citazioni ce n'è una molto importante a cui dobbiamo dedicare una attenzione particolare. Nel 1901 fu pubblicata una marcia che si chiamava Hague Society. Questa marcia aveva un terzo tema a cui poi un compositore ha aggiunto una melodia per ottavino. Avete presente nella marcia, poi si arriva alla fine, c'è l'ottavino che fa delle variazioni. Questa variazione fu aggiunta, diciamo, in un secondo momento, e a New Orleans i primi musicisti di jazz, soprattutto i clarinettisti, non si suonava l'ottavino magari nei primi gruppi, si suonava il clarinetto, i clarinettisti avevano imparato a memoria questa melodia facendone sfoggio di virtuosismo. Suonandola tra l'altro non improvvisando, ma proprio nota per nota come era scritta sullo spartito. Noi sappiamo addirittura che il giovane Louis Armstrong, per mostrare quanto gli andava veloce sulla cornetta, suonava questa melodia di ottavino o clarinetto sulla cornetta, quindi mostrando un'agilità che non aveva pari. Io vi faccio sentire per intero, anzitutto, in una versione da un disco di Louis Armstrong con Barney Bigard al clarinetto, com'è la melodia dell'ottavino di High Society. L'elemento che ci interessa è l'inizio. È molto fiorita, è molto con questo clarinettismo creolo, pieno di abbellimenti. Ok? Vi faccio sentire anche una versione che potrebbe aver ascoltato Charlie Parker da un disco del 1923 della Creole Jazz Band di King Oliver con Johnny Dodds al clarinetto. Eccetera. Parker, a un certo punto dell'assolo su Cherokee di Coco, cita l'inizio di High Society, cioè di questa melodia. Fa precedere questa citazione come da una specie di, come se fosse un atleta, di preparazione, si rilassa, fa una nota lunga, fa come se volesse richiamare l'attenzione. La cosa fantastica è che lui ce l'ha ben in testa questa cosa, perché la fa due volte. La fa su Warming Up Riff, cioè sul pezzo di riscaldamento, e poi su Coco. Ok? La fa solo la testa, fa, e la prepara con questa nota lunga. Quando qualche minuto dopo va a fare Coco, cioè lo stesso pezzo senza il tema, rifà la stessa cosa con la nota lunga. Solo che il tempo è molto più rapido, avete sentito? Gli serve come lancio, ma c'è questa idea, notate la citazione, è ancora all'inizio della frase, ed è, non è solo la citazione, essa è connessa con la nota lunga. Tu non hai la citazione di High Society se non hai anche la nota lunga, è tutt'uno, ok? Questo è un aspetto, come dire, di formulaico, da formula, ma su questo torneremo fra poco. C'è un ultimo aspetto che riguarda le citazioni, che è la B di Cherokee. Come vi ho detto, la B ha questa caratteristica. Ok? Ora, con un po' di immaginazione, si può immaginare di metterci sopra la melodia di T42. E magari scendere poi, seguendo la progressione originale di Cherokee. Ok? Cioè, puoi sovrapporre la melodia di T42 alle armonie di Cherokee, ed è quello che fa Charlie Parker in quelle jam session della metà degli anni 40. E segue la progressione, poi qui si interrompe la registrazione. Questo spunto e l'effetto di discesa che c'è nel brano originale ha offerto lo spunto a Parker per elaborare questa idea, non rimanere agganciato alla citazione di T42, ma provare a mescolare le note e gli accenti. Per cui poco dopo lo sentiamo affrontare lo stesso passaggio in questo modo. Thank you. canzone. Chiaro? Notate che stiamo rivedendo, senza rendercene conto, il concetto stesso di improvvisazione. Parker non sta buttando delle idee lì come gli vengono sul momento. L'improvvisazione non è questo. Lui sta utilizzando un bagaglio di idee, oltre alle citazioni che abbiamo visto, un bagaglio di idee che ha ben consolidate dentro di sé e che sono la piattaforma su cui lui sviluppa delle idee nuove. Come fa qui, poi cambia gli accenti, poi lo fa legato, il jazz è prevalentemente questo, è partire da un materiale che esiste, inglobarlo, assimilarlo, personalizzarlo e variarlo, magari in maniera estemporanea. Quando si tratta di andare a fare Coco, Parker ha sotto le mani una soluzione ancora più innovativa e sentirete assolutamente geniale. Notate bene, faccio una premessa, questo non vuol dire che ogni volta che lui faceva Cherokee sulla B faceva la citazione di T42 o le sue varianti. Per esempio in Warming Up a Riff, cioè nel riscaldamento che fa, lui sulla B non fa nessuna citazione di T42. Ma quando va a fare Coco, 10 minuti dopo, arriva a un certo punto la B e si inventa questa frase che jazzisti per generazioni hanno studiato, cioè la variante di T42 ma con gli accenti tutti spostati, tutti dislocati, come se fosse Stravinsky, a una velocità il doppio. Parker aveva una tecnica, ha sviluppato una tecnica che poi è stata ripresa dai suoi imitatori, che è quella di accentare la nota più alta della frase, a prescindere da che nota sia. Quindi, siccome le note alte capitano, diciamo così, a caso, no? Cioè uno ha una melodia e ogni tanto salta su una nota, lui istintivamente tendeva a dare un accento, un colpo, sulla nota più alta. Il risultato quindi è che questi accenti, come nel passaggio che avete sentito qui, sono totalmente irregolari, ma questo passaggio così formidabile non è il risultato di una trovata estemporanea, è il risultato di un lavorio che dura da anni sulla B di Cherokee. Fin qui abbiamo visto le citazioni e abbiamo visto come T42 sulla B di Cherokee diventa una frase improvvisativa originale. C'è un altro aspetto che riguarda la tecnica dell'improvvisazione jazz. Sono quelle che si chiamano formule. Io prima di spiegarle vorrei farvi sentire l'esempio e poi vi spiego cosa sono, perché hanno delle connessioni anche con la teoria della letteratura, per esempio, molto affascinanti. Nel gergo jazzistico si chiamano i licks. Brutalmente cosa sono? Sono delle frasi fatte che ogni grande solista, anche i piccoli solisti, hanno sotto le mani. Ognuno di noi ha degli automatismi manuali sullo strumento, a seconda dello strumento che suona, anche sulla batteria, e questi automatismi vengono usati secondo certe regole che vi dirò dopo. E sono, nei grandi solisti, sono, come dire, identificativi di quel solista. Parker aveva sotto le sue dita decine di queste formule, sono state studiate e anche catalogate, e le usava secondo determinate regole. Una delle più frequenti nel suo solismo, non in Coco, in generale, nel suo solismo, qui ne analizzeremo una sola delle tante, è una frase ascendente. Ho messo il pentagramma per chi legge, ma comunque vedete, l'importante è capire la curva. È una cosa del genere. Quindi c'è questo movimento ascendente e poi la discesa. In realtà già questa formula è la combinazione di due formule che Parker usa, perché spesso Parker usa una formula solo ascendente, che poi va in un'altra direzione, oppure solo discendente. La formula discendente può essere anche più cromatica, tipo, per esempio. Allora puoi avere una frase, per esempio. Ok? Mi seguite? Non è difficile identificare perché Parker tende ad attaccare molte delle sue frasi con questo movimento ascendente, che poi chiude discendendo. Io ve ne ho messe 7 e 8 nella registrazione che stiamo per sentire, tutte prese solo da Coco del 45, una dopo l'altra, arrivano velocissime una dopo l'altra, ok? E ho messo solo quelle che potete cogliere al volo, ce ne sono anche altre. Cioè, gran parte dell'assolo di Coco è costellato da questa frase ascendente. Vi ha convinto, penso che fosse abbastanza chiaro l'esempio, anche se passano velocissime, però mi sembra abbastanza. Poi tanto risentiremo l'assolo per intero e le potrete riconoscere. Che senso hanno, vi sta per caso prendendo per i fondelli Charlie Parker, non è l'improvvisazione jazz, allora non è questo improvvisare, come dire, in modo da niente, in modo creativo delle melodie? No, la verità è un'altra, e cerco di essere estremamente sintetico in questo. L'improvvisazione è una forma di comunicazione orale, cioè non si basa su un mezzo di trasmissione del contenuto scritto, ma si basa attraverso un mezzo di trasmissione del suono. Questo mezzo di trasmissione del suono ha molti vantaggi. Uno su tutti è di immediato impatto partecipativo. Io qui sono qui a parlare con voi, non vi ho mandato uno scritto a casa. Questa mia presenza fisica e verbale, fonica, orale, crea partecipazione, perché voi adesso siete qui in silenzio ad ascoltarmi, perché queste sono le regole di questa mattinata, ma in una situazione più informale potremmo per esempio dialogare a botta e risposta, questo sarebbe ancora più partecipativo. Suonando potreste mettervi a ballare e in questo caso il suono rende un effetto di partecipazione. Questa è la forza dell'oralità, la forza del suono, sia che sia suonato da uno strumento, sia che sia verbalizzato come sto facendo io in questo momento. Lo svantaggio qual è? È che per chi ascolta, ciò che io pronuncio svanisce un attimo dopo che l'ho detto. Il suono è caduco per definizione. Lo dico ed è finito via nel nulla. Quindi è qualcosa di estremamente labile. Questo comporta un problema di mnemonico, di memorizzazione per voi e per me. Per me, che non ho niente di scritto e mi devo ricordare quello che devo dire. Per voi che ascoltate e vi dovete ricordare quello che ho detto. Questo meccanismo viene compensato in tutte le forme di comunicazione orale, tutte, dal meccanismo delle formule, cioè da degli elementi ripetitivi, che possono essere anche personalizzati, come nel caso di Parker, elementi ripetitivi che punteggiano la narrazione. Elementi ripetitivi, vedete anche io stesso che sto dicendo tre volte, elementi ripetitivi, perché la ripetizione aiuta a me a ricordarmi quello che devo dire dopo e a voi a fissare il concetto. Questo meccanismo, ripeto, si trova in tutte le forme di comunicazione orale ed è stato scoperto, anzitutto, all'interno dei poemi epici, dell'Iliade e dell'Odissea, che come sapete erano narrazioni orali, più tardi trascritte. C'è un grande studioso che è morto giovanissimo, purtroppo, Milman Perry, e poi il suo allievo Albert Lord, il cui libro importantissimo è stato anche tradotto in italiano, Il cantore di storie, che hanno analizzato Perry i poemi epici omerici e Albert Lord invece l'epica serbo-croata. Tra l'altro nel libro anche italiano c'è anche il CD con tutte le poesie, i canti allegati, e hanno scoperto che la poesia epica serbo-croata e prima ancora la poesia epica omerica si basano su un meccanismo di formule, di frasi ripetute, dove non è semplicemente, ecco che veniamo alle citazioni, non è semplicemente che io ogni tanto ripeto delle cose, ma la ripetizione avviene in determinati punti, per esempio nel caso delle citazioni di Parker, all'inizio della frase. nel caso della frase ascendente di Parker, all'inizio della frase. Cioè la formula non è solo una frase fatta, ma è la collocazione di quella frase. Parker ha delle formule per certe tonalità, in altre tonalità non usa quelle formule. Omero usa delle formule di un certo tipo perché hanno un certo carattere metrico, quindi vanno in certi punti del verso e non in altri. Altre formule andranno in altri punti. Il cantore ha la competenza di queste cose, una competenza che ha assimilato attraverso l'ascolto. E quindi sa dove mettere le formule, su che ritmo, su che punto del verso o su che punto dell'armonia della frase. L'improvvisazione jazz, in questo senso, non è dissimile dal modo, seppure con molta più libertà, dal modo in cui un poeta orale, che so, Mimmo Cuticchio, quando fa le sue straordinari conti epici siciliani, è qualcosa di simile. Anche lui usa delle formule, improvvisa, usa delle formule per riempire la memoria, per farvi capire a voi la storia, per dare ritmo all'azione. Certo, nell'assolo di Coco di Charlie Parker, in qualsiasi assolo jazz, questo elemento formulaico è mescolato a, diciamo, vampate creative, inventive, per cui c'è molta più scioltezza, molta più libertà di un poeta orale, molta più, aggiungo, individualità. Voi sentite l'io di Parker che parla. Non è un narratore, come dire, generico, come per esempio nei poemi epici omerici. Sentite l'io di Charlie Parker, più poetico in questo senso, nel senso moderno. Ma indubbiamente l'elemento formulaico è alla base di tutta la di qualsiasi forma di comunicazione orale. Ce n'è un'altra piccola frase formulaica che voglio farvi sentire, ed è una piccola frase ribattuta che potrebbe essere scambiata per un canto degli uccelli, può darsi, ma secondo me è semplicemente un gioco tecnico, che Parker usa soprattutto sulla B, la famosa B, dove non fa l'effetto T4Tu, spesso usa questa frase ribattuta. Questa frase compare già nelle versioni precedenti. Come vedete, in Coco Parker porta all'estremo di velocità e di agilità idee che stava elaborando da tempo. Arriviamo verso la conclusione del nostro discorso. Ci sono ancora un paio di cose da guardare rapidamente. La prima è una tecnica che Parker usa non spesso, ma sempre con un grande effetto, il growl, il gorgoglio, cioè quando lui forza il suono che assume un carattere gutturale, così. È una tecnica che si usa più sulla tromba che sugli strumenti ad ancia, ma capita di sentirla sugli strumenti ad ancia, è un'eredità del blues e della concezione africana del suono, per cui la voce e lo strumento tendono a scambiarsi di ruoli o a mescolarsi. Nelle versioni del 41-42, quelle live che abbiamo sentito, giovanili di Parker, in particolare quella di, se non ricordo male, di Kansas City, Parker usa insistentemente questo effetto growl che dà una grande forza viscerale a certi passaggi e funziona come contrasto con la velocità, la pulizia, l'agilità nitida degli altri fraseggi. Ok, questo è un esempio. Sentito? E poi c'è un elemento blues. Charlie Parker veniva dal Missouri, veniva da Kansas City, che è un posto intriso della tradizione blues, che fu portata a est, a New York, principalmente dall'orchestra di Count Basie, che veniva da Kansas City e che nel 1936 arrivò a New York. Tutto l'elemento rhythm and blues che trovate nella musica popolare dalla fine degli anni 40 in poi è un'eredità di musicisti provenienti da Kansas City nell'area dell'est, cioè sulla costa newyorkese o sulla costa californiana. Pensate che uno dei primi grandi produttori di rhythm and blues, Jesse Stone, autore dei primi successi di rhythm and blues alla fine degli anni 40, era un pianista di Kansas City. E l'elemento blues è pervasivo in Charlie Parker, ci sono moltissime formule blues di Charlie Parker. In Coco, che è un pezzo molto lontano dal blues, ne troviamo poche. In Cherokee, voglio dire, sulle armonie di Cherokee, che sono molto lontane dal blues, troviamo poche formule, ma quelle poche sono così, come dire, risaltano proprio perché sono rare e meritano di essere sottolineate. È un riff blues. È una cosa piccolissima, ma c'è. Un attimo dopo è già sparito. Ma questa frase è una frase da quasi da rhythm and blues, pensate alla lenta. C'ha, è proprio un elemento, anche questo, blues. Dopo aver esaminato tutti questi frammenti, prima di riascoltare per intero il brano, vorrei sottolineare un aspetto espressivo, anzi c'è anche un altro dettaglio che vedremo poi. Un aspetto espressivo. Abbiamo detto che il tempo rapido è sostanzialmente un modo per esprimere questo senso dell'urgenza espressiva, dell'ansia perfino, e abbiamo detto non a caso perfino di nevrosi nella musica di Charlie Parker, di questo schizzare angoloso, spigoloso, frenetico del fraseggio parkeriano, con questo tempo rapidissimo di Coco. E su questo è stata costruita una mitologia maledetta di Charlie Parker. Charlie Parker è uno dei miti e degli eroi maledetti del jazz, con quel maledettismo di cui abbiamo già parlato, se vi ricordate, a proposito di Billie Holiday, sottolineando anche il piacere voyeuristico del fan che gode nel vedere le disgrazie di un, non sue ovviamente, ma del suo fan che è un genio perché è disgraziato. Quindi con quella fusione di genio e sregolatezza, genio e maledizione tipicamente romantica. Su questo cliché maledettista è stato per esempio costruita un'intera letteratura su Charlie Parker. Il suo produttore Ross Russell dei dischi Dial ha fatto un libro che non si trova più, tradotto anche in italiano, la sua prima biografia, nella quale si è inventato interi episodi della vita di Parker per mostrarne l'aspetto maledetto. Sapete che vuol dire inventarsi perfino un tour in Europa che lui non ha mai fatto? Ne ha fatto uno solo, nel libro ce ne sono due. Questo perché? Perché era il produttore dei dischi di Parker ed è quello che ha fatto uscire, tra l'altro, il Lover Man, dove Parker suona sbagliando, si sente male e poi praticamente dà di matto e finisce nell'ospedale psichiatrico. Lui ha pubblicato questo disco, Parker ovviamente ce l'aveva a morte con lui perché nessuno ha piacere che venga fuori il referto sonoro di una crisi psichica. Però, senza molti scrupoli, Ross Russell ha pubblicato sia il disco sia il libro. Un altro esempio di questo sfruttamento della immagine maledetta di Parker è il film Bird di Clint Eastwood, di cui io sono uno dei rari e pochi appassionati, perché è un film che è stato bersagliato di critiche, secondo me, ingiuste, perché è un film che poi non voglio risollevare di nuovo la polemica, ma Bird di Charlie Parker è un grande film dal punto di vista cinematografico, del linguaggio cinematografico, ma non c'è dubbio che la sceneggiatura si soffermi esclusivamente sul lato maledettista della vita di Parker. Chiunque abbia conosciuto Charlie Parker sa che Charlie Parker era una persona solare. Poi è vero, si è riempito di eroina, poi è passato all'alcol, ha provato un suicidio con i barbiturici, ha avuto una vita disgraziatissima, gli è morto un figlio da piccolo, insomma, non ha avuto una vita felice, è morto a 35 anni e sapete che il medico legale, quando esaminò il suo corpo senza sapere chi era, gli aveva dato 50 anni come età presunta. Questo vi fa capire in che stato fosse. Però Parker al tempo stesso, oltre ad essere un uomo molto colto, che non aveva finito la scuola media, ma dagli interessi culturali amplissimi, dalla poesia, alla musica, alla pittura, Parker era anche una persona affamata di vita, affamata di cibo, affamata di sesso, affamata di gioia. E quindi la sua musica in realtà è piena di gioia. Lui era una persona con un grande senso dell'umorismo, altrimenti non poteva essere amico di Dizzy Gillespie, per dire. Questo senso dell'umorismo, questa gioiosità e perfino l'abbandono lirico, il piacere di cantare, una melodia semplice. Parker era un appassionato di musica popolare, avete sentito citare Dardanella, per esempio, una melodia piuttosto melensa. Questo elemento si trova qui e lì nella corsa a ostacoli di Coco. E anche di Warming Up Reef, soprattutto nel Parker più maturo, non la trovate tanto nel Parker del 41-42. Voglio farvi sentire qualche estratto di questi passaggi gioiosi o lirici di abbandono, uno dopo l'altro. Sentite la coda. Più lirico. Meravigliosi, no? C'è un abbandono di gioia quasi. E anche in Coco. Pipero, pipero, pipero, come un uccellino che salta. Proprio sono dei gesti più che delle melodie. L'altro esempio, scusate, l'ultimo frammento che non abbiamo ancora analizzato e che è interessante, è l'assolo di batteria. Cioè, alla fine di Coco, dopo l'assolo di sax alto, Max Roach suona 16 misure di questo furioso, tutto sul rullante, furioso assolo di batteria. Merita di essere analizzato perché è parte integrante di questo pezzo. In realtà questo assolo di batteria deriva, a mio avviso, da un altro assolo. Dovete sapere che Max Roach non ha mai fatto mistero di sentirsi essere stato allievo di un grande batterista che purtroppo non è vissuto molto a lungo, Sidney Catlett, detto Big Sid. Max Roach ha inciso molti brani dedicati a Big Sid o suonando sui tamburi frasi, ritmi, combinazioni che venivano da Sidney Catlett. Sidney Catlett, che era un batterista incredibilmente versatile, cioè negli stessi anni suonava con Charlie Parker e con Louis Armstrong, pensate. Catlett era stato il protagonista della prima seduta importante del Bebop nel maggio 1945 a nome di Dizzy Gillespie, dove fanno uno di quei pezzi che poi è diventato un classico del Bebop, Sal Peanuts. Sal Peanuts finisce proprio con un assolo di Sidney Catlett alla batteria. E poi sentiremo quello di Max Roach su Coco e sentite la somiglianza. Questo è Catlett. Tutto sul rullante. Roach. Rullante cassa. Pensate che perfino l'attacco dei due assoli è molto, in maniera sospettosa, molto simile. Molto questa è la stessa figurazione. Allora, arriva il momento di riascoltare, ci riascoltiamo tutto Coco, alla luce, cercando di rimettere insieme tutti questi frammenti che abbiamo analizzato, la storia di questo pezzo, e proviamo a sentire come unitariamente viene fuori il pezzo. Sa che il titolo Coco non sia venuto da queste ultime due note. Dobbiamo fare attenzione, per concludere, a non feticizzare il disco. Il disco, rispetto, abbiamo parlato di improvvisazione, di formule, di come si costruisce un assolo nel jazz, di come si improvvisa. Il disco fa brutti scherzi perché questo flusso di vita che avete sentito è sempre libero, warming up e riff è completamente diverso, fu registrato 10 minuti prima. Se Parker avesse registrato 10 minuti dopo un'altra versione di Coco, l'avremmo avuta ancora diversa, certo con quelle formule, con quegli elementi, il richiamo degli uccelli, eccetera, però per esempio in Warming Up e Riff non c'è nessuno dei giochi di T42 della B, per esempio, quindi sarebbe stata ancora diversa. Però fissato come in una fotografia, in un'istantanea, fissata in sul disco, questa improvvisazione sembra perfetta, sembra inevitabile, sembra che debba essere così. Attenzione, no, questo è un brutto scherzo che gioca il disco. Noi l'ascoltiamo, lo riascoltiamo, e a forza di ascoltarlo crediamo che diventi inevitabile, non modificabile. Certo che non è modificabile, ma non è stato pensato così nota per nota. L'errore più spesso che si fa, lo fa anche il grandissimo musicologo Gunther Schuller, è dire sembra scritto. È così perfetto che sembra scritto. No, la sua natura è orale, invece, avete visto, è pieno di formule, di ripetizioni, di meccanismi combinatori, di cose diverse. Allora concluderei questa conversazione di oggi per sciogliere il carattere feticistico del disco Coco con l'ascolto di due versioni di Ciro Kiyokoko dopo il disco della Savoy. Parker ha continuato a suonare Ciro, Chi e Coco? Pochissimo. È un segno interessante, vuol dire che forse per lui quel disco rappresentava, che lo si voglia feticizzare o meno, un punto d'arrivo. Glielo fanno suonare in un paio di jam session, almeno da quello che abbiamo sul disco, come dire, questo è il tuo pezzo forte, suonacelo adesso, no? Facciamo questo che è riconosciuto come il tuo pezzo forte. Allora, vi faccio sentire le due versioni del, mi pare, 46 e 47. Sono brevi entrambe. Sono due registrazioni dal vivo, informali. In una di queste fanno il tema, fanno Ciro Chi, quindi non dovete meravigliarvi. Siccome non è pensata per il disco, si può suonare il tema senza problema di infrangere il diritto d'autore o altri problemi del genere. La prima versione che ascoltiamo è con il trio di Nat King Cole, è una registrazione radiofonica, alla fine sentirete l'annunciatore che loda Charlie Parker, e il trio di Nat King Cole con Buddy Rich alla batteria. Ora che avete sentito tutte le formule, potete capire come Parker le ricombini in maniera diversa in questa versione del 1946. Fatto il tema. Metti in un altro punto. Di nuovo il richiamo del corpo. Thank you, Willie Smith, Billy Carlos, Charlie Parker, King Cole Trio and Buddy Rich. That did it, gentlemen, that really did it. Non proprio sobrio, diciamo, l'annunciatore. Nel tono. L'ultima registrazione che ascoltiamo questa mattina e invece un live di Barry Ulanoff. Chi era Barry Ulanoff? Barry Ulanoff era un critico che ha scritto anche un'importante storia del jazz, che se non vado errato fu tradotta anche in italiano, e che in quegli anni cercava di conciliare una guerra fratricida che c'era fra musicisti, cioè tra i tradizionalisti e gli avanguardisti, tra i boppers e i Dixielanders, e quindi faceva delle trasmissioni radiofoniche in cui metteva insieme musicisti di entrambe le scuole. Non in questo caso, dove invece Ulanov mette insieme una All Stars di musicisti, li sentirete lui stesso che li annuncia, ci sono Fats Navarro alla tromba, Ola Niger, lo stesso Buddy Rich alla batteria, Lenny Tristano al pianoforte, Charlie Parker, e uno dei pezzi che fanno non può che essere Cherokee. In realtà, dato che non fanno il tema, fanno il pezzo passa insomma col titolo Coco. E anche qui sentirete la solo di Parker è di nuovo molto diverso, ma ha giocato sulla combinazione delle diverse formule. Reading from left to right, Charlie Parker on alto, Fats Navarro on trumpet, Alan Eager on tenor saxophone, John LaPorta on clarinet, Lenny Tristano piano, Billy Bauer guitar, Tommy Potter bass, and Buddy Rich drums. Everybody blows as we strike these blows for modern music with Charlie Parker's Coco. High society. Eccetera, poi continua con gli altri solisti. In definitiva, Coco ha rappresentato uno spartiacque nella storia del jazz. Questo pezzo, che come vedete è il risultato di tanto lavoro perseguito negli anni sulle armonie di Cherokee, è poco eseguito poi dopo il disco Savoy, per Parker rappresenta un punto d'arrivo, ma per coloro che ascoltarono questo disco rappresentò come un libro di studio da studiare. Hai voglia di dire che è comunicazione orale che sparisce, ma il disco, nel momento in cui ti consegna il testo, qualcosa di fissato, diventa oggetto di studio. Parker non è stato il solo inventore del bebop, di un nuovo modo di improvvisare, con lui Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Bud Powell, ma questo disco rappresentò veramente un punto di svolta, la velocità, la frenesia delle idee, la quantità delle idee, la nuova tecnica, il suono, il livello espressivo, tutto fanno di questo pezzo un capolavoro ed uno spartiacque. Ma avete visto che è un capolavoro, uno spartiacque che non nasce dal nulla, perché l'arte appunto è una continua rielaborazione di ciò che già esiste per creare qualcosa che non esiste. E in questo Parker è stato un grandissimo artista. Grazie.